Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Un gruppo di bambini sta giocando una partitella a calcio su un campo sterrato. Uno di quelli dove l'erba ha lasciato il posto a terra, sabbia, qualche buca. Dove quando giochi devi prima di tutto stare attento a non cadere, a non slogarti la caviglia e quando finisci di giocare le ginocchia sono sempre sbucciate. Le partite di calcio che nascono per strada spesso finiscono a botte. Basta una spallata un po' più forte o una parola di troppo e ci si ritrova a rotolarsi nella polvere. Questo accade soprattutto se sul campo si trovano uno contro l'altro due bambini con un carattere e uno spirito agonistico molto forti. Uno fa l'attaccante e l'altro fa il difensore. Alla fine lo scontro fisico è inevitabile. Se a questo aggiungiamo il fatto che le due squadre sono formate una da bambini libici e l'altra da bambini italiani, allora ci si mette di mezzo anche il patriottismo. Siamo alla fine degli anni 50. Siamo in Libia, a Tripoli. Mentre ai mondiali di calcio di Svezia comincia a brillare la stella di Pelé, nelle strade polverose del quartiere Sant'Antonio a Tripoli si affrontano i figli degli emigranti italiani e una squadra di loro coetanei libici. Si gioca a piedi nudi e si inizia con 100 sorrisi, ma alla prima occasione giù botte da orbi. Guardarsi alle spalle è d'obbligo e prima di tener d'occhio il pallone bisogna stare attenti a non prendere i calci negli stinchi. Il bambino Ricciolino, che ha appena fermato il piccolo attaccante libico, non immagina certo che di lì a pochi anni farà la stessa scivolata sulle gambe di Zico o di Maradona. Non sa neppure che presto il suo cognome sarà scandito assieme a quello di altri 10 campioni mentre suona l'inno nazionale italiano. Quel bambino è Claudio Gentile. Claudio Gentile. Buon pomeriggio dal TG1, edizione straordinaria per aggiornarvi sulla situazione in Libia. Secondo fonti dei ribelli, Muammar Gheddafi è morto questa mattina a Sirte dopo violenti combattimenti. Ancora non è chiaro. I tragici fatti della Libia sono storia recente, ma nel cuore di molti italiani hanno riaperto una ferita profonda vecchia di 40 anni. All'inizio degli anni 70, con l'insediamento di Gheddafi, molti italiani sono costretti ad abbandonare la Libia dove lavorano e dove, partendo in tutta fretta, lasciano tutti i loro averi senza possibilità di recuperarli. Claudio Gentile, con la sua famiglia, si trasferisce a Como e, recentemente intervistato dalla redazione di Sky Sport, così ricorda l'allontanamento forzato dal luogo dove è cresciuto. Quello che io posso dire e mi ricordo, ma poi anche quello che mi hanno detto i miei genitori, i libici con gli italiani avevano un ottimo rapporto, erano i più amati a differenza degli inglesi o degli americani, quindi l'italiano è sempre stato visto molto bene dal popolo libico e c'erano dei rapporti veramente ottimi. I miei zii mi dissero che dovettero lasciare lì tutto, dai soldi a tutti i gioielli che avevano. E questo veramente è stato molto duro per la gente che insomma si era costruito anche un futuro nel campo del lavoro, dei commerciali e tutto, vennero su solo con le valigie varie. La fuga dalla Libia porta l'allora 14enne Claudio a Como, dove per dare un aiuto economico alla famiglia inizia a lavorare in un'azienda di vernici a due passi dal confine svizzero. Ma la passione per il calcio non si può soffocare. E così Gentile inizia a giocare nella locale squadra del Maslianico, il paesino dove lavora. Di giorno in fabbrica, la sera sul campo di calcio. In poco tempo quel ragazzino dalla pelle scura si fa notare da chi di calcio se ne intende e finisce a giocare nel Varese in Serie B. Poi, nel 1973, arriva la grande chiamata. Lo vuole la Juventus. Quando sono arrivato alla Juventus io avevo 20 anni, c'era Boniperti. Quando sono entrato nella sede ho capito subito che era qualcosa di eccezionale. La Juventus di Boniperti è senza dubbio la squadra più importante del momento e qualsiasi giocatore farebbe carte false pur di poter varcare le porte della sede torinese. Una società che non è semplicemente una squadra di calcio, ma come sottolinea lo stesso Gentile, è anche una scuola di vita. Se non avevi la cravatta, se non avevi la... cioè c'era proprio uno stile, ti insegnavano anche fuori dal calcio, e questo cosa che adesso non succede. Mi ha detto: guarda che se non vai, in sede con la giacca e cravatta non ti fanno entrare. Quindi ho dovuto presentarmi nel modo giusto, e poi questo è continuato anche dopo, perché poi cominci a fare un anno, due, cominci a capire come ti devi comportare, cosa devi fare, cosa devi dire. Cioè è un insegnamento anche per soprattutto per noi giovani. Io sono arrivato, poi è arrivato Scirea. Cioè, per tutti è stata una scuola, io penso. Il calcio degli anni 70 è molto diverso da quello attuale. Non ci sono ancora i procuratori che si occupano delle trattative economiche dei calciatori. Non ci sono i fiumi di denaro riversati da sponsor e televisioni, capaci di far perdere a chiunque il contatto con la realtà. Per questo bisogna avere un carattere forte per farsi rispettare. E Gentile in questo non ha particolari problemi a inserirsi nel gruppo, anche quando c'è da parlare con i grandi capi per il rinnovo del contratto. C'erano dei giocatori che quando incontravano Boniperti, insomma, era uno che incuteva un po' di... insomma, e magari qualcuno non riusciva a farsi il proprio interesse, non riusciva a controbattere. Io invece controbattevo per prendere i 5 milioni in più, dovevo saltare sugli specchi perché dovevo dirgli tutte le storie, cosa avevo fatto, cosa non avevo fatto. Per il ragazzino che si rotolava nella polvere di Tripoli è l'inizio di un sogno. Un sogno che continua per 11 stagioni, con una squadra alla quale vuole dedicarsi al 100% fino al campionato 83-84. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. In un campetto di un oratorio c'è un altro bambino che con Claudio Gentile condivide la passione per il calcio. Certo, non si gioca per le strade polverose di Tripoli, non si gioca a piedi nudi e neanche ci si prende a botte per difendere l'orgoglio nazionale. Si gioca per il piacere di giocare, senza pensare neanche un momento a diventare un calciatore famoso, a giocare in una squadra prestigiosa, a vincere una Coppa del Mondo. Si gioca perché la palla è rotonda e correre su e giù per quel rettangolo verde chiamato campo è la soddisfazione più grande che un bambino possa provare. Siamo a Cremona, a due passi dal Po, e questo bambino che gioca da difensore, ma con le sue gambe veloci corre su e giù per la fascia laterale, aiutando tutta la squadra anche in fase offensiva, è già diventato l'idolo delle ragazzine. Non sa ancora che nel giro di pochi anni i giornalisti inizieranno a chiamarlo il fidanzato d'Italia. Il suo nome è Antonio Cabrini. Antonio Cabrini. Come molti ragazzini che fin da giovanissimi si affezionano, si innamorano del mondo del calcio, del pallone, della palla, io mi sono avvicinato a questo mondo così, in maniera semplice, non sono stato spinto da nessuno, è stato proprio un avvicinamento, diciamo, autodidatta, senza problematiche, e ho avuto la fortuna soprattutto di vivere i miei primi anni in campagna, quindi avevo anche la disponibilità dello spazio per giocare a calcio. Abbiamo raggiunto Antonio Cabrini nella sua casa di Bologna, ma è nella Cremonese che esordisce a 16 anni nel campionato di calcio di Serie C, per poi passare all'Atalanta in B e infine, in soli 2 anni, alla squadra più desiderata dell'epoca, la Juventus. L'impatto con la città come Torino, soprattutto con una squadra che blasonata come la Juventus, non è di facile concezione, ecco, non è assolutamente facile comunque entrare a far parte di una società che ritieni una delle società più importanti del calcio mondiale. Il 18enne ragazzino di provincia si ritrova a condividere lo spogliatoio con campioni come Zoff, Scirea, Capello, Bettega, Causio e Anastasi. Malgrado la squadra sia formata da alcuni dei più grandi giocatori del calcio italiano, il clima che la Juventus offre anche ai nuovi arrivati è il migliore possibile per facilitarne l'inserimento. La la mia fortuna è che ho trovato dei compagni di squadra che non ti hanno fatto sentire questo peso di questa maglia bianconera addosso e quindi hanno colto come, è vero, come un ragazzo giovane che appunto si affacciava alla vetrina del calcio italiano che conta, e comunque non c'è mai stato nessun tipo di pressione psicologica sul fatto di essere considerato il più giovane del gruppo, della squadra. Cabrini non è titolare, è un terzino sinistro e quella zona del campo è presidiata da un altro giocatore che è arrivato alla Juventus qualche anno prima e che si è conquistato la maglia numero 3 a suon di spintoni e scivolate. Ma il destino comincia a fare uno dei suoi scherzi proprio nella partita di esordio in Serie A di Cabrini. Ma il motivo di maggiore interesse della partita lo ha offerto l'esordio in Serie A di Antonio Cabrini, terzino sinistro, sostituto dello squalificato Gentile. Sbocciato nell'Atalanta, è da tempo uno degli azzurrini più in vista. Oggi è stato fra i migliori in campo. Dunque, inizialmente mi sono trovato un po' in difficoltà, sia per l'emozione sia perché dovevo rompere il fiato, no? Quindi ho dovuto rompere questo fiato. Verso la mezz'ora mi sono ripreso abbastanza bene e ho terminato in crescendo, penso. Due giocatori, un solo ruolo, quello del terzino sinistro. È un vero peccato dover rinunciare a un talento così grande. Nelle prime partite Cabrini infatti gioca saltuariamente, come avviene nel caso dell'esordio per squalifica di Gentile, oppure entrando come suo sostituto. Inizialmente è chiaro che Claudio aveva qualche anno più di me, quindi lui era già, faceva già parte della Juventus ed era titolare in quella squadra quando sono arrivato io non ero titolare, infatti lui poi inizialmente giocava come terzino sinistro al mio posto, giocava in quel ruolo con Cucurello a destra e Morin al centro. Ma un talento del genere non si può tenere bloccato su una panchina, tanto più che la Juventus ha nella sua rosa dei veri campioni che possono tranquillamente cambiare ruolo e giocare in zone diverse del campo. Con l'avviarsi della stagione e l'inserimento mio nella squadra, lui passò, lui andò a fare il terzino destro al posto di Cucurello fu spostato al centro al posto di Morini, quindi poi lì si formò con Scirea quella catena difensiva che poi fu portata avanti dalla Juventus per tantissimi anni. Grazie a questa difesa impenetrabile, Cabrini ha la soddisfazione di vincere subito uno scudetto, il 16esimo, e di confermarsi come una delle promesse del calcio italiano. Siamo a Torino, negli spogliatoi della Juventus, nella squadra in cui giocano un gruppo di campioni collaudati e pieni di esperienza come Zoff, Bettega e Capello. Seduto in un angolo c'è un giovanissimo Antonio Cabrini che ha appena giocato la sua prima partita in Serie A. La paura e la tensione iniziali si sono volatilizzate quando è arrivato il momento di dimostrare la propria forza e il proprio carattere. Cabrini sa che per conquistare un posto nella squadra deve giocare bene e in modo continuo. Qualche consiglio gli arriva proprio dal suo compagno di squadra Claudio Gentile, che di lì a poco gli lascia la posizione di terzino sinistro per andare a giocare sulla fascia destra, diventando il terrore degli attaccanti che si avventurano nella sua zona del campo. Gli direi molto spirito agonistico. Quando lui entrava in campo, è chiaro, non dico che si trasformava, però è chiaro che lui adottava questo tipo di gioco, secondo me assolutamente non cattivo, però molto, molto fisico, e quindi lui era bravo e soprattutto secondo me riusciva anche a capire in pochissimo tempo anche le varie sfaccettature dell'avversario. Gentile è abituato a giocare così, sin dai tempi in cui abitava a Tripoli, e per lui non fa nessuna differenza che di fronte ci sia il suo piccolo amico libico o il capocannoniere del campionato italiano. Il calcio non è uno sport per signorine, lo dicono tutti, e quando scende in campo ci tiene a farsi rispettare. Fuori dal campo era un ragazzo sicuramente molto tranquillo, molto, molto sereno, e quindi non è che poi questa sua serenità, questa sua tranquillità, molti hanno pensato che non la mettesse in campo, anzi era così di natura lui, ecco. Poi dopo l'hanno considerato un giocatore tosto, un giocatore duro, un giocatore arcigno, però secondo me era comunque un giocatore corretto, perché poi non è mai avuto delle espulsioni in tutti gli anni che appunto è rimasto alla Juventus, e sicuramente che si faceva rispettare, ma assolutamente non cattivo. Con lo spostamento al centro di Cucurreddu, Gentile e Cabrini si trovano contemporaneamente in campo con la maglia da titolari, la numero 2 e la numero 3. I due terzini presidiano i due lati opposti della difesa, e quindi durante la partita non c'è molto dialogo. Essendo entrambi difensori esterni, è chiaro che lui gravitava in una zona del campo che era completamente dall'altra parte della mia, però non c'era bisogno poi di parlare più di tanto, perché sapevamo benissimo cosa dovevamo fare. Nel 1976 c'è un altro arrivo importante in casa Juventus. Non si tratta di un nuovo giocatore da aggiungere a una rosa che di campioni ne ha già in abbondanza, ma di un allenatore. Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Torino, con una Juventus che si classifica al secondo posto e uno spogliatoio diviso in due gruppi capeggiati l'uno da Capello e Anastasi e l'altro da Furino e Bettega, l'allora allenatore Carlo Parola viene sostituito dall'unico che per temperamento e carattere è capace di riunire una squadra allo sbaraglio come un domatore dentro una gabbia di leoni. Il suo nome è Giovanni Trapattoni. Pronto, Bobo! Cambia gioco, dai! Claudio! Fuori, fuori, Claudio! Fuori! Subisci il fallo e scappa, ma tu guarda! Ieri era tuo, fatti furbo! È tuo il fallo, È a tuo favore, appunto! Adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. Destini incrociati. Dovevano restare incompatibili perché giocano nello stesso ruolo, ma i protagonisti di Destini Incrociati di oggi hanno finalmente la grande possibilità di mostrare tutto il proprio valore. Sono infatti schierati insieme nel ruolo di terzino, uno destro, l'altro sinistro. Sono Claudio Gentile e Antonio Cabrini, una delle coppie difensive più straordinarie del calcio italiano. Quando nel 1976 arriva sulla panchina della Juventus Giovanni Trapattoni, Gentile e Cabrini, insieme a Cucurreddu e a Scirea, con cui si completa il diamante difensivo, diventano giocatori fondamentali per il modulo difensivo preferito dal Trap e crescono di giorno in giorno, aumentando l'esperienza e l'affiatamento che li rende in poco tempo una coppia imbattibile. E capo è fatto. Quando c'è da marcare stretto l'attaccante, è gentile, come dicono i commentatori sportivi, a francobollare l'avversario. Nelle ripartenze invece è Cabrini che con velocità e precisione innesca l'azione di contrattacco, buttando palle in area con estrema precisione. Ai due basta scambiarsi una rapida occhiata per prendere in consegna un attaccante o sganciarsi sulla fascia, e Zoff, dalla linea di porta, può contare sul loro valido aiuto. Trapattoni riesce a creare un gruppo affiatato e fortissimo che inanella la vittoria di due scudetti consecutivi. Trapattoni arrivò alla Juventus nel 76 e quindi si trovò in mano una grande squadra formata da grandissimi giocatori e soprattutto un gruppo di giovani intraprendenti che stavano veramente facendo delle cose molto, molto buone. È stato bravo nel gestire il gruppo, è stato bravo a capire i vari caratteri dei suoi giocatori e soprattutto riuscire a mettere insieme un gruppo che, tra virgolette, erano considerati veterani, è un gruppo di giovani che comunque si affacciavano alla ribalta del calcio italiano. La Juventus è una squadra solida, sia in difesa che in attacco, e per questo costituisce la base su cui Enzo Bearzot costruisce la nazionale italiana che nel 1978 parte per i mondiali di Argentina, con la voglia di riscattare il deludente quarto posto rimediato 4 anni prima in Germania. Il trittico Zoff, Gentile, Cabrini diventa una realtà anche in maglia azzurra, con la convocazione a sorpresa di Cabrini. Ma fu abbastanza repentina questa decisione di Bearzot nei miei confronti di portarmi in Argentina. Durante la stagione comunque sia io che Rossi stavamo disputando un ottimo campionato fino a quel momento, quindi lui prese la palla al balzo e soprattutto riscontrò quelle, tra virgolette, quelle piccolissime carenze in due reparti che potevano essere uno all'attacco e l'altro in fase difensiva sulla fascia, e quindi ci inserì immediatamente dalla prima partita, ecco. Quindi non avevi neanche tempo di rendertene conto comunque di essere titolare in nazionale. La nazionale di Bearzot si presenta alla partita inaugurale con la Francia di Platini con la voglia di fare bella figura e riportare ai livelli più alti il calcio italiano. Cabrini è emozionato, ma dall'altra parte del campo, lontano ma in fondo vicinissimo, c'è Claudio Gentile, che prima del calcio di inizio batte le mani verso il giovane compagno in segno di incoraggiamento, come a rinsaldare un legame invisibile e prepararli al meglio per l'inizio della partita. Ma le sfide tra Francia e Italia riservano sempre mille sorprese. E anche questa volta il destino prepara alla difesa italiana un brutto, bruttissimo scherzo. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète. Zoff, Gentile, Cabrini, Benetti, Bellugi, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Antonioni e Bettega. Iniziato il mondiale per la squadra azzurra. E il velocissimo Six che ha iniziato. E la Francia è già in vantaggio con un gol di Lacombe. Peggio di così non poteva cominciare per noi il mondiale. 40 secondi, la Francia è in vantaggio. Ha segnato Lacombe. Sembra incredibile, ma i francesi hanno appena realizzato il gol più veloce della storia dei mondiali. L'Italia, colpita a freddo da un cross proveniente dalla destra, subisce l'1-0 dopo appena 40 secondi. Gentile, quando vede la palla insaccarsi nella rete di Zoff, è frastornato. Malgrado la corsa frenetica per cercare di ripiegare in difesa, non è riuscito a impedire il cross da cui ha avuto origine il gol francese. Cabrini, pur essendo la matricola del gruppo, corre incontro al proprio compagno di squadra e lo invita a reagire. In fondo la partita è solo all'inizio. In quel momento venne fuori il vero valore morale e anche fisico di una squadra che poi arrivò al quarto posto in quei mondiali. Trovarsi sotto dopo pochissimi secondi, ci fu questa grande reazione da parte del gruppo che appunto mentalmente riuscì a ribaltare il risultato. Il gol subito ad opera dei francesi fa scattare la molla che consente agli azzurri guidati da Bearzot di riprendere il controllo della partita e terminare l'incontro vincendo per 2-1. La squadra impone il proprio gioco di minuto in minuto e la Francia non può far altro che subire. Sapevamo cosa stavamo facendo e cosa andavamo a affrontare in quel mondiale. Poi soprattutto lui giocava dall'altra parte del campo, quindi era difficile incontrarsi, incrociarsi. È chiaro che era talmente collaudata la coppia che ormai ci si capiva a memoria, assolutamente. Un incrocio di sguardi. Questo è tutto ciò che avviene tra i due terzini della Juventus e della Nazionale quando scendono in campo. Eppure questo legame intangibile che li fa giocare a memoria e permette all'uno di sapere esattamente la posizione dell'altro in ogni momento della partita è frutto di una lunga preparazione in allenamento, sotto la guida attenta e precisa degli allenatori, Trapattoni e Bearzot. Penso che ormai le parole su Bearzot si siano sprecate. È stato per noi allenatore, padre, fratello, ogni tanto dava le bacchettate, ogni tanto con qualcun altro magari usava un metro diverso perché doveva usare un metro diverso, però La cosa più bella era la sua lealtà e la sua correttezza, perché non blefava mai, e se decideva di far giocare un giocatore perché lo riteneva più in condizione o migliore, ma mai perché apparteneva a un club invece che a un altro. L'Italia chiude il Mondiale di Argentina al quarto posto e al ritorno in patria viene accolta con grande ottimismo. L'inserimento nel gruppo di giocatori giovani e capaci come Cabrini e Rossi fanno ben sperare per il futuro. L'appuntamento con la gloria è solo rimandato di 4 anni, al Mondiale di Spagna 82. Destini incrociati. Prosegue ancora l'azione. Ivan Jaloha libera Tardelli. Boniek, tiro di Boniek fuori. Nel 1982 la nazionale italiana è in Spagna per disputare la Coppa del Mondo di Calcio. Nella squadra allenata da Berzot, i due terzini titolari sono Claudio Gentile e Antonio Cabrini. La squadra del 82 era figlia di quella del 78. E in Spagna è chiaro che le prospettive erano diverse da quelle dell'Argentina, perché comunque la squadra non era così considerata all'altezza per fare comunque per arrivare tra le prime quattro. Dopo un inizio a reti inviolate contro la Polonia di Boniek e un altro pareggio con il Perù, l'ultima partita del girone porta la nazionale a confrontarsi con l'esordiente Camerun, un'incognita per tutti. Claudio Gentile ricorda l'aria che tirava negli spogliatoi. Se io ti dovessi dire come eravamo nello spogliatoio, tu te la ricordi quella partita, o fuori o dentro, cioè noi rischiavamo di andare fuori del mondiale. Mi ricordo quella partita, ce l'ho ancora qui, nello spogliatoio non fiatava nessuno, c'era una tensione, ho detto qua rischiamo di andare fuori. Sono arrivati quelli del Camerun, gli spogliatoi erano vicini, e hanno ballato fino all'inizio della partita, ballato, musica tutta andare, io dicevo ma questi qua io non lo so. Per dire, ci sono degli approcci che sono diversi per noi. Gentile e Cabrini sono seduti uno accanto all'altro nello spogliatoio e come al solito sono abbastanza silenziosi. Poi è Gentile a rompere il ghiaccio, quasi ricordandosi delle partitelle giocate a Tripoli, dà una pacca sulla spalla a Cabrini e gli dice che è il momento di fargli vedere come giocano gli italiani. La qualificazione arriva dopo l'ennesimo pareggio, ma la classifica fa cadere l'Italia nel girone successivo con le due squadre più forti del mondiale, l'Argentina di Maradona e il Brasile di Zico. Nessuno ci dava credibilità, nessuno considerava la nostra nazionale all'altezza di poter competere con i campioni del mondo in carica e poi successivamente col Brasile che erano i candidati numero uno. Nella partita contro l'Argentina è grazie alla coppia difensiva che avviene la magia. Gentile prende in consegna il nemico pubblico numero uno, Diego Armando Maradona, e non gli lascia toccare una palla, esprimendo il suo gioco maschio e al limite della correttezza. E l'altro terzino, il bel Antonio, che si carica il peso dell'azione dalla quale scaturisce il gol che porta l'Italia alla vittoria. E ancora in avanti a Graziani, vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in area, esce Pigliol, tiro parato del portiere. Ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota. C'è un altro tentativo da parte degli azzurri. Ecco un tiro in rete. Rete di Cabrini. Cabrini ha segnato per l'Italia. La seconda rete di Cabrini. Pochi giorni dopo aver sconfitto l'Argentina, l'Italia si trova di fronte il Brasile stellare di Zico, Socrates, Falcao. Chi vince passa alle semifinali. Chi perde torna a casa. Chiama in avanti Cabrini. Rossi. Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0, ha segnato Rossi. È il momento di Paolo Rossi, che gli spagnoli soprannominano Pablito. La sua tripletta porta in vantaggio l'Italia, che viene raggiunta per due volte. Zico è marcato da Gentile, che conserva ancora la maglietta strappata del brasiliano come trofeo e ricordo della sua marcatura un po' troppo stretta. Me ne ha detto di tutti i colori, ma questo fa parte del gioco. Io avevo un compito che Berzot mi aveva dato in modo specifico, perché lui diceva: se tu riesci a fermare quello lì, noi possiamo vincere la partita. Quindi avevo una responsabilità enorme, è andato bene, quindi tutto positivo, tutto bello. Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Dopo le due vittorie contro Argentina e Brasile, la strada appare in discesa. C'è la Polonia in semifinale, ma questa Italia è diversa da quella dell'incontro inaugurale e Boniek e compagni sono costretti a tornare a casa. La finale con la Germania è una sfida classica del calcio mondiale e quando all'Italia viene concesso un rigore, tutto sembra procedere per il verso giusto. O forse no. Calcio di rigore per fallo di Prigel su Conti al 25esimo minuto. Il rigorista è Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. Cabrini è fuori. Cabrini sbaglia il rigore che potrebbe portare in vantaggio l'Italia. Come 4 anni prima, ma con le parti invertite, è Gentile che si avvicina a consolare il suo compagno di squadra, rimasto visibilmente frastornato dall'errore sul dischetto. Ma la forza di questa squadra è il gruppo. E dal gruppo nasce il carattere che porta a superare questo momento negativo e a riprendere le redini della partita. Ma il gruppo in quel periodo è stato fondamentale, forse è stato l'allarme in più per raggiungere la finale e poi vincere il mondiale. È un gruppo che comunque era consapevole della forza, della propria forza e soprattutto mentalmente era preparato alle prospettive, alle situazioni negative che poi si erano create in quei momenti. Quindi direi che si estraniò un po' da tutto quello che, dalle polemiche che circondavano questa nazionale, e il gruppo ebbe il grande merito di venirne fuori con un grande risultato. Fallo di Rummenigge, Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi, Bergomi, Scirea, Tardelli. Va a terra Brigel, ma Gentile riesce a liberare. Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Va in avanti Conti, traversone, Altobelli, e sono 3, terzo gol di Altobelli. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Come è finita ce lo ricordiamo tutti, una sequenza di ricordi riproposti centinaia di volte. Rossi, Tardelli, Altobelli, 3-1. Il ritorno a casa sull'aereo presidenziale, la partita a scopone con Pertini. Ci sono occasioni in cui Gentile e Cabrini si incontrano, magari saltuariamente, ma l'amicizia che li unisce oggi come allora è ancora molto forte. Ma ognuno dopo ha fatto la sua strada, però sappiamo che comunque quelle 2-3 volte l'anno ci si vede, perché ci sono delle situazioni dove ci vediamo, dove ci salutiamo, degli eventi che appunto ci riguardano, e quindi sappiamo benissimo che c'è la presenza di uno dell'altro, a parte di Gentile e di molti altri, ecco, quindi è normale che questo avvenga. Di quei giorni Cabrini e Gentile ricordano soprattutto i giochi di sguardi che hanno creato un muro invalicabile per tutti gli attaccanti avversari. E questo sguardo lo si può vedere ancora oggi, dopo quasi 30 anni dalla magica notte di Madrid. Il sole illumina l'estasio, Spagna se viste de fiesta, se ve la pipión en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada.